Cosa posso dici? dire una cosa? Dunque, io nei miei vigneti, per esempio, ho sempre piantato alberi da frutto, ciliegi, tutto quanto. Adesso è un bel periodo, quando vado mi vedo i caprioli, le lepri, i fagiari, i nidi d'uccelli, che una volta, perché adesso si sta migliorando, come all'inizio fanno i trattamenti, con cosa adoperare. Ci sono stati gli inizi degli anni 60, 70, che le industrie chimiche spacciavano di quei prodotti che erano micidiali, perché anche gli insetti che sono dentro, come possono essere sul bosco, sui vigneti, sui frutteti, quelli si cibano di insetti come discorso. E se non ci sono più insetti, non hanno neanche loro più possibilità di vivere. Sì. Ma tu vivi in una zona, però, scusa se insisto, però tu veramente vivi in una zona molto contaminata. Molto in questo, contaminata, nel senso quello che sì. Perché oggi gli dicevo, Eris, ma è vero che anche nelle zone del Prosecco, domanda così un po' retorica, passano con l'elicottero per buttare fertilizzanti, pesticidi, eccetera, è vero? Sì, è vero, in più anche con le persone, siccome il vigneto non l'ho tutto attaccato, dai, tutta la contaminazione, sì. Di tanti attorno, con quelli non sai con cosa trattino, come discorso. Che quello che ti hai di questa contaminazione che ti penalizza anche un attimo. In più, il discorso dell'elicottero, con l'elicottero il discorso sempre della mafia, perché sono i grossi proprietari, che al posto di prendere su soltanto gente in nero e a poco, preferiscono l'elicottero, così non fanno fatica e pensano soltanto al business del commercio. Il problema è che contaminano tutto il resto. Infatti. Senti, perché, Daniele... perché per esempio adesso stanno venendo fuori in diversi comuni che hanno vietato i trattamenti, perché passavano anche sopra le case, sopra le scuole. Parliamo di l'anno scorso, due anni fa, sì. Quando?